Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e innanzitutto ancora tanti auguri da Magazine 24 e da me, da tutta la redazione di Magazine 24. Come sapete, Magazine 24 appuntamento con la stampa periodica, vi diamo qualche consiglio di lettura in questi giorni, magari c'è un po' più di tempo per leggere, ci sono anche degli spunti carini su cui riflettere. Visto l'orario e vista anche la giornata festiva, io vorrei cominciare con un caffè che idealmente vi offriamo. Si tratta più che del caffè, della storia del caffè, e la trovate su Storica. Storica ha reso già disponibile il numero di gennaio, numero 23 del gennaio del nuovo anno, quindi fa già un po' effetto cominciare a vedere sulle copertine delle riviste la nuova indicazione dell'anno del 2011. Il caffè in Europa è l'articolo da cui vi voglio segnalare un po' di cose. Lo hanno chiesto a Francesca Prince, che è una scrittrice e che racconta qual è stata la storia del caffè, che è stata una bevanda anche osteggiata dalle autorità, osteggiata addirittura dalla Chiesa per un certo periodo, e ha una vicenda tutta particolare. Allora vi leggo da Storica qualche brano di questo bell'articolo di Francesca Prince. Innanzitutto ci spiega che il caffè in Europa è stato sinonimo di tazzina di libertà, e poi capiremo perché. Sostanzialmente il motivo viene riassunto già nel sommario che accompagna questo titolo. Dice: nel XVIII secolo le capitali europee si riempirono di locali in cui davanti a una caffettiera si parlava di affari, ma soprattutto di politica. Quindi il caffè serviva anche come momento aggregante, come momento per stare insieme, era la bevanda che veniva preferita appunto dai filosofi e dagli illuministi. Ma facciamo un passo un bel po' più indietro. Il caffè da dove viene? Originario dello Yemen, innanzitutto. Ci spiegano che la città di Mocha, scritto con la H dopo la K però, e non come la caffettiera, è una città sulle coste del Mar Rosso, fu per secoli il principale porto di partenza dei preziosi chicchi. Il termine arabo kava, da cui attraverso il turco kave deriva poi la nostra parola caffè, significa rinvigorente. Quindi i musulmani adottarono con piacere una bevanda che, pur senza essere alcolica, come sappiamo il Corano vieta il consumo di alcol, possiede delle proprietà stimolanti. Quindi in Medio Oriente sono sorti i primi locali dedicati al consumo di caffè. Questo fin dal XVI secolo. Costantinopoli, Medina, la Mecca, il Cairo, Damasco, a Baghdad esistevano delle sale in cui gli uomini, sempre gli uomini, perché come sappiamo c'erano delle limitazioni per quanto riguarda la frequentazione in locali pubblici da parte delle donne, gli uomini si recavano in massa per sorseggiare caffè e intanto chiacchieravano di affari. L'introduzione del caffè in Europa si deve alla Repubblica di Venezia, alla Serenissima, che nel 1500, tra il 1500 e il 1600, cominciò a intrattenere degli scambi più fitti e a importare in Europa, in Italia, appunto, il caffè. Intorno al 1570, riferisce appunto Storica, alcuni mercanti veneziani introdussero in Italia il caffè, però fino al secolo successivo il consumo della bevanda rimase molto limitato, era appannaggio di una elite ristretta. Perché? Perché costava tantissimo e quindi il suo alto costo rendeva il caffè un lusso per pochi. Inoltre, riferisce sempre Francesca Prince su Storica, in Italia più che in altri paesi l'introduzione del caffè dovette scontrarsi con l'opposizione di alcuni sacerdoti conservatori. Perché questi sacerdoti la osteggiavano? La consideravano un po' la bevanda del diavolo. Nella vita cristiana sostenevano non c'è spazio per questa bevanda degli infedeli, che ha effetti malefici. Nel 1600 però succede una cosa determinante, che Papa Clemente VIII, che fu Papa appunto in quegli anni fino al 1605, fu chiamato a pronunciarsi, a dire una parola definitiva pro o contro il caffè da parte della Chiesa. Il pontefice decise di provare la bevanda prima di dare la sua decisione, di dare la sua sentenza, e gli piacque talmente tanto che subito diede il benestare alla diffusione del caffè nel mondo cristiano. Quindi dobbiamo alla lungimiranza e anche, diciamo, al gusto di Clemente VIII la possibilità di diffusione del caffè in quel periodo. Scongiurato quindi il pericolo di una interdizione da parte della Chiesa, il caffè cominciò a diffondersi, lo vendevano dei venditori ambulanti che avevano proprio delle teiere, delle caffettiere naturalmente, e nel Settecento poi cominciarono a fiorire anche delle caffetterie in varie città della penisola, ad esempio il caffè Florian o il caffè Pedrocchi a Padova, il caffè Greco a Roma. È interessante anche notare come quasi da subito il consumo di caffè si sia accompagnato a questioni politiche. Ad esempio, in Gran Bretagna, in cui il commercio di caffè si diffuse a metà del 600, le coffee house, le case del caffè, i bar, insomma, coincisero, la diffusione di queste coffee house coincise con gli anni della guerra civile, che in Gran Bretagna andò dal 1642 al 1660. Ricorderete che portò appunto questa guerra alla decapitazione del re di Carlo I e alla instaurazione di una repubblica guidata da Cromwell. Molti dei nuovi caffè divennero così dei club politici, pro o contro naturalmente questa insurrezione, pro o contro la repubblica, e c'erano i caffè repubblicani e i caffè monarchici. Tra l'altro, per essere ammessi a questi caffè e discutere di politica non era necessario essere nobili o essere ricchi, c'era solo la condizione di pagare un penny e di vestirsi in modo appropriato. Erano sempre locali, ohimè, riservati agli uomini, però qui si poteva stare tutta la giornata, fumare, degustare caffè, conversare o leggere. Non erano poi luoghi, diciamo, raccomandabilissimi, ci informa la Prince, perché erano anche luoghi dove si giocava d'azzardo, spesso si litigava, si veniva alle mani, qualche volta si arrivava anche a dei duelli. E poi c'era naturalmente con l'ostilità dei produttori di birra, che non erano così favorevoli alla diffusione del caffè. Dopo la restaurazione della monarchia, Carlo II ordinò di chiudere questi caffè per evitare, come dire, sia i disordini per questioni di ordine pubblico, ma anche per evitare i dibattiti politici troppo aperti. Infatti definì i caffè dei luoghi dove gli insoddisfatti si incontrano, tengono scandalosi discorsi sull'operato di Sua Maestà e sull'operato dei suoi ministri, insomma dei luoghi poco raccomandabili. Solo che i suoi sudditi continuarono a frequentare le coffee house e quindi il re finì per revocare la sua decisione. Bene, da qui il caffè si avviò in Europa a coincidere poi con l'illuminismo, lo riferisce sempre la Prince, ma vi rimando naturalmente a Storica per avere un quadro più puntuale della situazione. Tra l'altro ci sono anche dei consigli di lettura, dei consigli anche per andare a curiosare in internet, c'è addirittura un sito che viene segnalato caffè senza l'accento .it, e poi se volete proprio una storia c'è ancora una barra, lo slash come si dice, it, e poi ancora caffè.php. Il caffè, dicevo, nel Settecento con gli illuministi ebbe un'enorme diffusione, poi i francesi e gli olandesi ne introdussero la coltivazione nelle loro colonie americane, quindi calarono i prezzi e il caffè divenne via via sempre più accessibile. E poi nel Settecento gli illuministi consideravano che il caffè stimolasse anche il ragionamento, sia in virtù delle sue proprietà appunto specifiche, ma anche dei luoghi in cui lo si consumava. Erano appunto luoghi di incontro di intellettuali. Gli illuministi francesi avviarono un po' questa moda tipica, cara agli intellettuali di Francia fino a oggi, di scrivere i loro libri, di tenere le loro conversazioni proprio al caffè. Tutto questo, se vogliamo passare dalla storia alla cronaca, come dire, può essere utilmente integrato da una cosa che ho trovato sull'Impresa. L'Impresa, sapete, è la rivista italiana di management, viene pubblicata sempre dal gruppo del 24 ore, del Sole 24 ore, la trovate in edicola, nel numero ultimo, nel numero di dicembre, che è in distribuzione già da qualche giorno, c'è appunto una interessante analisi di come sta cambiando adesso il mercato del caffè. A cosa mi riferisco? Mi riferisco naturalmente alle cialde. Cerchiamo di non fare pubblicità né all'uno né all'altro dei maggiori competitor, come si dice, che si scontrano in questo terreno, però insomma tutti sappiamo che ci sono alcune grandi, grandissime aziende che stanno spingendo per la vendita di macchine per il caffè in cialda, quindi già preparate. Si chiama tecnicamente caffè porzionato, come si legge appunto su L'Impresa. Questo boom boom di cialde e capsule, poi, leggo sempre dall'impresa, porta con sé il successo naturalmente delle macchine che servono a preparare il caffè in questo modo. Quello che è sorprendente è che per un bel po' di anni, cioè una ventina più o meno, queste macchine per il caffè espresso, questo tipo di macchine, non ha avuto una grande fortuna, tanto che non abbiamo mai pensato di rottamare la nostra abituale caffettiera. Anche qui non facciamo pubblicità, ma tutti sappiamo a quale tipo di caffettiera stiamo pensando. Nonostante i prezzi, però, questo caffè in cialda, questo caffè porzionato, sta crescendo molto, molto, molto rapidamente. I prezzi, segnala l'impresa, sono ancora in media 3 volte più alti rispetto al caffè da moca. Però questo mercato, il mercato del porzionato, è uno dei più dinamici. Da 10 anni è costantemente in espansione e negli ultimi proprio anni ha avuto un'espansione fortissima. Si calcola che nel 2009, su 950 milioni di euro di caffè tostato venduto in Italia nella grande distribuzione, ben il 21% abbia riguardato le cialde, e il 28,3 milioni di questi 950 hanno riguardato proprio le capsule. La crescita è fortissima, perché c'è stato proprio nel 2009 un incremento del 241%. Naturalmente incrementi così forti stanno anche a indicare che i volumi complessivi sono ancora molto piccoli, si parla di un 5% del totale del mercato del caffè in tutta Europa, ma si calcola anche che nel 2015, cioè da qui a pochissimi anni, questo 5% potrebbe diventare il 12%. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Abbiamo preso un lungo caffè, con qualche numero, macchiato, diciamo così, con qualche numero. Adesso cambiamo completamente argomento. Innanzitutto è bello festeggiare anche un compleanno di un magazine, e lo facciamo volentieri. Il magazine in questione è Famiglia Cristiana, fondata in un'epoca in cui la parola magazine assolutamente non si usava. Infatti Famiglia Cristiana entra nel suo 80° anno di vita. Come ricorda il numero di questa settimana, tra l'altro con una copertina dove si ricorda appunto questi 80 anni, si ricordano questi 80 anni insieme, è lo stesso direttore Don Antonio Sciortino a spiegare che Famiglia Cristiana è stata fondata ad Alba nel Natale del 1931, quindi entriamo nell'80° anno. Il fondatore naturalmente fu Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che poi è il fondatore dei Paolini. Piacevole, dicevo, ricordare, celebrare in questo periodo anche un settimanale così longevo, così fortunato, insomma, noi che siamo per la diffusione, naturalmente per la stampa, anche per motivi bassamente di convenienza personale, ci teniamo a che Famiglia Cristiana abbia altri 80 anni almeno di altrettanto successo. E proprio su Famiglia Cristiana traggo un tema che è molto molto affrontato sui settimanali di questi giorni, naturalmente gli scontri del 14 di dicembre, le manifestazioni giovanili, il disagio dei giovani vengono analizzati un po' da tutti i settimanali. Davvero diventa anche complicato andare a raccogliere la lettura migliore. Vi segnalo su Panorama, sull'Espresso ad esempio, una serie di contributi interessanti, di spiegazioni ispirate dall'una o dall'altra parte, appunto, di letture su questo disagio giovanile. È bello il contributo di Franco Garelli, però, proprio su Famiglia Cristiana, che parla di una generazione di giovani senza, cioè prova a guardare al di là delle manifestazioni e dice: dietro la contestazione della riforma dell'università, i cortei, i disordini, c'è un malessere diffuso che è profondamente avvertito da una generazione che rischia di fare della precarietà la sua condizione di vita. Puntualizza Garelli: al di là di chi può strumentalizzare questo disagio, ci sono molti giovani che si rivoltano contro un sistema da cui si sentono esclusi e messi ai margini. Alcuni dicono è il costo della globalizzazione, altri dicono è l'effetto della crisi, altri ancora se la prendono con le garanzie di cui godono gli adulti, gli anziani, che sottraggono in qualche modo degli investimenti, delle risorse per i loro figli e nipoti. Però, continua Garelli, qui c'è proprio un mondo del lavoro che è finito sottosopra, e con il vecchio continente che non riesce a reggere le sfide dei paesi emergenti, molte imprese che a torto o a ragione investono altrove, se l'Italia non mette a disposizione accordi sindacali più adeguati, più moderni, se non imbocca appunto la strada, come si dice spesso, della flessibilità. Però poi ci sono dei numeri che parlano molto chiaro e Garalli li ricorda. Oltre un quarto dei nostri giovani è disoccupato, il lavoro stabile è un miraggio, abbiamo cassa integrati in continua espansione e troppi adulti e famiglie naturalmente connesse sono vittime della riorganizzazione produttiva. Ecco cos'è la generazione senza, la generazione che oltre ad avere delle prospettive non buone finisce per non avere fretta di crescere, quindi senza fretta di crescere, senza un'intenzione ravvicinata di famiglia, senza le prerogative sociali, conclude Garalli, possedute dai coetanei del passato e naturalmente senza un lavoro sicuro. Proprio questa incertezza occupazionale, dice Garalli, è ciò che impedisce a molti dei giovani di guardare con fiducia al futuro. Questa è la considerazione che trovate su Famiglia Cristiana, molto breve, molto centrata sul disagio giovanile di cui siamo stati testimoni in questi ultimi giorni. Andiamo a vedere allora come le cose potrebbero evolversi, potrebbero cambiare. Ad esempio, forse non ci avete pensato o forse sì, se ci avete fatto caso, il lavorare nei computer, specialmente i softwareisti, gli ingegneri eccetera, è più spesso un lavoro da uomini che non da donne. In realtà questo è perché i cosiddetti nerd, questo è il termine gergale con cui si indicano un po' i secchioni dell'informatica, i secchioni del computer, sono più spesso dei ragazzi che non delle ragazze, non perché presumibilmente le ragazze abbiano minori capacità di lavorare con queste tematiche, ma risulta un po' così nel mondo americano, nel mondo anglosassone, e noi finiamo per importare questo stesso atteggiamento. Bella allora l'intervista che Daniel Lyons propone su Newsweek questa settimana. Newsweek fa un lavoro molto interessante, una serie di interviste per fare il punto su dove siamo e dove stiamo andando, insomma, complessivamente. Chiaramente molte interviste sono di ispirazione più tipicamente statunitense. Però in questa intervista Daniel Lyons ha raggiunto Marissa Meyer. Marissa Meyer è uno degli ingegneri, scusate, è il senior executive, quindi insomma il capo degli ingegneri che si occupa appunto dello sviluppo software a Google. Quindi si tratta di una donna che ha un potere enorme in questo settore, che ha un posto davvero decisivo. E fa effetto appunto perché è una donna e in questo senso viene interpellata da Daniel Lyons. Vi leggo qualche passaggio su cui appunto Lyons cerca di capire come mai questo può essere solo un lavoro da uomini. La prima domanda è infatti: ma perché ci sono così poche donne che lavorano nell'industria della tecnologia? E lei dice: beh, io credo che la cosa in realtà stia cambiando. Sì, effettivamente non è che nel periodo della middle school, diciamo al nostro middle school e high school, cioè le nostre medie, il nostro liceo, ci siano delle differenze così marcate tra ragazzi e ragazze per quanto riguarda l'apprendimento della matematica e delle scienze. Però penso che io sono stata molto fortunata perché sono sempre stata molto brava in queste materie e non mi sono mai posto il problema se questo mi rendesse in qualche modo strana o addirittura poco desiderabile da parte degli altri, naturalmente anche da parte delle attenzioni dei ragazzi. Quindi non l'ho mai vissuto come uno stigma, in qualche modo come una lesione della femminilità. E le chiede allora: ma qual è la percentuale di ingegneri donna nella Silicon Valley? Dice: credo che siamo attorno al 15-17% nelle aree tecniche, però qui a Google siamo già al 20%. E qui passa poi a raccontare come è andato il suo ingaggio. Dice: io sono stato il primo ingegnere donna a Google e proprio mentre mi stavano facendo il colloquio di lavoro i fondatori mi hanno detto: noi abbiamo già 7 ingegneri ma sono tutti uomini, sono tutti ragazzi, in realtà è la parola che viene utilizzata, perché naturalmente è una cosa legata spesso ai più giovani. Però le hanno detto i fondatori: noi siamo convinti che ci voglia un bilanciamento di genere e che solo se avremo un bilanciamento di genere riusciremo ad avere una società davvero vincente. La cosa divertente la racconta appena dopo, quando dice: a un certo punto abbiamo assunto 16 uomini sempre nell'area appunto tecnica e mi hanno detto che non avrebbero più firmato nessuna lettera di assunzione finché non avessi portato dei candidati donna, quindi una sorta di quota rosa imposta dall'interno per poter appunto arrivare a quel bilanciamento di genere. Le chiedono anche: ma lei è stata l'unica donna nei corsi di computer, nei corsi avanzati di computer? Dice: beh, penso, quando sono arrivata all'università ai corsi di livello più avanzato effettivamente facevo un po' notizia, ero l'unica donna. La signora peraltro è anche molto graziosa, come si vede nella foto su Newsweek, quindi probabilmente faceva notizia sia per essere l'unica donna sia anche per il suo aspetto piacevole. Non era però, come racconta lei stessa, particolarmente versata o come dire ossessionata dai computer nell'età dell'adolescenza, semplicemente andava bene nelle materie scientifiche appunto e ha proseguito poi su questo filone abbandonando il suo iniziale desiderio, come racconta Newsweek, di diventare un medico. E allora andiamo a concludere la nostra puntata di Santo Stefano guardando un pochino avanti, perché con Panorama è stato dato questo, possiamo chiamare un inserto, una sorta di ulteriore rivista, Il Mondo nel 2011, cioè si è provato, i colleghi di Panorama hanno provato a guardare avanti e dire: beh, che succederà l'anno prossimo? Naturalmente non si tratta di un oroscopo, per gli oroscopi avremo tempo per tutta questa settimana e per i primi giorni del nuovo anno, ognuno di noi naturalmente negando di farlo magari invece andrà a sbirciare cosa può essere la sua previsione per il futuro. Panorama fa un lavoro un po' diverso, mette in fila gli eventi che sono già programmati per il nuovo anno cercando di capire come possono influire. Ho scelto tra i molti eventi anche molto seri, in realtà una cosa un pochino più leggera che mi pareva più adatta alla giornata di festa. L'anno prossimo, l'anno in cui stiamo per entrare, sarà quello in cui si celebreranno le nozze tra Kate Middleton e William d'Inghilterra. Sono i due ventottenni appunto che stanno per andare alle nozze del secolo. Il matrimonio è fissato per il 29 aprile, c'è molta attesa e Azzurra della Penna, così la collega che firma l'articolo, spiega un po' che cosa ci aspettiamo da questo matrimonio. Innanzitutto pare che la sposa non si vestirà da uno stilista italiano ma più probabilmente da uno stilista inglese, questo come sapete è sempre un momento molto importante. Pare che si sposino nell'abbazia di Westminster, anzi questo è assolutamente certo, quindi sfidando anche il fatto che proprio lì si siano svolti i funerali poi di Diana, e ci saranno più o meno 2500 invitati, questa è le indicazioni che si sanno fino ad ora. C'è anche un po' di litigio su chi paga, non in questo caso tra i genitori degli sposi ma tra i contribuenti inglesi e la casa reale, perché i contribuenti inglesi, secondo un sondaggio, non vorrebbero pagare loro il costo delle nozze, il costo della cerimonia, preferirebbero che se ne facesse carico la casa reale. Qui ci sarà quindi un po' da discutere al momento del conto, vedremo come andrà a finire. Noi per oggi ci fermiamo qui. Magazine 24 non sarà in onda il primo di gennaio, il primo dell'anno. Noi torneremo invece domenica 2 gennaio, quindi io vi faccio innanzitutto gli auguri di un ottimo, di uno strepitoso 2011. Ringrazio Filippo Aureggi questa mattina con me in regia. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare questo programma e avere tutte le informazioni su tutti i programmi di Radio 24. Buona domenica a tutti.